diciamo, l'incontro con la comunità indiana, tanto e tutto, nella zona sud della città, perché appunto furono loro che arrivarono insieme alla Brigata Senigallia a Porta Romana, sostanzialmente. E gli unici, diciamo, caduti prima dell'11, prima dell'insurrezione generale, sono appunto questo, facevano parte di questo gruppo, diciamo, di indiani, di questa divisione. Non mi ricordo se era una divisione o una squadra, non me lo ricordo. Lasciamo la tazza.